Dimmi K1. Una volta siamo rigridati, mi siamo venire. Sì, vabbè, da gatta, la villata traduco io a te. Dai, stanotte che mi diverto. Parla con la voce tua se vuoi parlare. Pronto. Parla al culo. E la sei il numero d'amico tuo, 29770. Eh? 29770. Eh? Quel porco d'amico tuo, 29770. Lo do a tutta la frequenza. Perché un porco come te, 29770. Telefonatelo. 26826, telefonate voi, 26826. Il numero è 26826, telefonatelo è. Prendo collasso stanotte muri. Il numero che stavo vedendo prima, la Finocchio, che era 23481, quello di Finocchio. E invece adesso ce l'hai la pedalata, che è diverso, 26826, come conosci? Ancora qui siete. Però non se ne andato, non è morto ancora, ma non vediamo subito. Questo qui vedrà che crepa e non ci dice niente. Salato. Caffè, fatemela. Cappa di due cambia, puro. Questo? Sei il mio Snoopy, di vuoi che sia? Tu è crepato, mi ha chiuso, meno male. Crepato sei tu e quella bagassona è tua moglie. Pronto. Chiudi, pederasta. Ma non hai capito che devi crepare tu? E tua moglie è già crepata, adesso manchi solo tu a crepare. Meno male che già crepi anche tu, Hai fatto morire a tuo padre, adesso se sei cade fai morire a tua madre, no? Ma crepi prima tu, zio, tu crepa! No! Dai, stasera se non parli con la bocca tua, però quando faccio il 24-3-3-6-4, capito? Adesso ti sto divertendo a rompermi il coglione a bacchino. Stanotte mi diverto con quella bagassone di tua madre. Perché non ti diverti con tua madre? Viro, non pederasta e paraculo. Allora, no! Lunedì sera a Santa Maria le parliamo, dai.